binario 5, olla! Avanti, avanti! invece però non funziona né un margine né l'altro. Ho capito, mi fai il controllo, gufo. Con questo non te lo posso dare, aspetta, provo a attaccare l'altro, che c'ha lo giudizio, perché questo rimane cedito. Allora, c'è l'altro, vediamo, va. Mi senti? Capa, che ti sento. Ehi, l'alimentatore mi ha partito. Capa, capa. Vedi come ti arrivo con le coordinate? Capa, saggio e guardo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Radio 5, Santiago 9 e 20, con picchi positivi. Ma dimmi, dove è freddo anche, l'ho toccato, è ghiacciato. Breccoco. Avanti, break. Buonasera, sì. Maricchio, e buonasera, Graziano, Cappappa. Buonasera, buonasera, Giuseppe. Movimento, sì. Cappappa, tutti buoni in questo momento, perché appena superato il semaforo della Tesuca. Ho capito, bene, ti arrivo con le coordinate. Fai un passaggio, Paghi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. K, 9 più 20, Radio Super 5. Positivo. E dove sei diretto, Giuseppe? Far prendere un pochino d'aria alla bambina. Facciamo un giro dalla rotonda, una puntatina lì a Porto Torres, Paghi. E poi ce ne rientriamo. E io come ti sto arrivando nelle tue coordinate, allora? 9, Radio 5, bomba. K di positivo. Ti rilancio a Graziano, vatti Graziano per Giuseppe. Ehi, ciao Giuseppe, mi pare che mi ha fatto l'alimentatore. Senza toccarlo nessuno, boh. Adesso ho messo questo di Amper, ma è piccolino. K, ma sei sicuro che non sia partito il fusibile, Graziano? Hai controllato bene, bene. Nell'alimentatore, no, non ci ho guardato, adesso ci guardo. Però, strano, la luce dell'interruttore accende, però i palazzini no. Capa, allora vuol dire che controlla, perché dovrebbe avere un fusibile dentro, Graziano. Vedi un pochino cosa può essere successo. Adesso guardo, perché è vero che c'è un pulsante nero con il disegno del cacciavite a croce, deve essere lì la valvolina, adesso lo slitto. Ma, ascolta, Graziano, dammi un controllo di segnale, per gentilezza. Allora, 9 e 20, picchi positivi, radio squillata, bomboletta, Giuseppe. Kappa, adesso vediamo un pochino questa antenna che ho messo nella BM, se mi dà qualche picco in più, Graziano. Kappa, riprendi tu, perché che io mi controllo quello, già rimango in ascolto, così provo. Kappa, che te ne hai messo, Giuseppe? Ma a dire la verità non so manco come si chiami. Ho tolto la mia, avevo la PC4 della Midland. E ho questa qua, e mi pare che sia una quarantina di centimetri più lunga qualche. Cosa ti sembra? No, buona. Se non sono discreto, che te l'ha data? Me l'ha data bene. Ah, positivo. Adesso sto facendo un giro, voglio vedere un po' come reagisce la ragazza. Già fischia bene quello, Kappa di positivo. Saluti anche la signora e la bimba, Kappa, ringraziano e contraccambiano qualche. Grazie. Cioè, va bene, una schioppettata con l'antenna, Andate bene, mela, va bene. Guarda, forse l'unico sbaglio che ho fatto io quando ho preso il tutto, fa che veniva alla GPC aver preso la prima antenna che ho preso, chiusi, quando mi hanno ritirato la PC4. KKK. Ascolta, ma la base è rimasta quella che c'avevi montata sotto? No, no, negativo, Mike. Ho dovuto, la base è completamente diversa. Ah, KKK, va bene, va bene. E tu, Antonio, tutto ok? Sì, tutto a capo, tutto a capo. Tutto tranquillo, accetto, mi sto riposando perché domani devo trabaccare tutto il giorno. Come esco dal cantiere, quando andrò a fare un altro lavoro privato e mi uscirò alle 8 minimo. Vabbè, ma che? E ben vengano quelli extra. Infatti. L'importante è che vengano e si lavori, tutto qua. E si rulli soprattutto, si rulli alla grande. Ciucchiamo. Guarda, al giorno d'oggi non uno di lavoro, ma io dico con due si vivrebbe, dai, prima si stava bene con due lavori, al giorno d'oggi invece con due lavori si vive, mentre con uno si tenta di sopravvivere. Cappa, sempre bene, mi ascolti? Ma adesso sono qui nella discesa di San Michele. Mi senti sempre, sì. Cappa, forte ghiaccio. Anche tu non scherzi con quella tenniro, Mamma, c'è un mare che sembra disegnato, non si vede un'onda. Addirittura, e io pensavo c'era un mare brutto perché c'è un po' di vento nelle mie coordinate, e pensavo ci fosse un mare brutto, invece c'è visto. Comunque un po' di venticello c'è, no? Ma devo essere sincero, perché qui non ce n'è vento, a Sassari c'era vento, infatti quando siamo usciti di casa, come aperto il portone, ho guardato gli alberi lì sotto casa che stavano ballando. Qui invece ma c'è qualcosina, ma è proprio a livello di brezzolina. Positivo. Meglio così, Giuseppe, meglio così. Ma e quindi a Graziano gli è partito l'alimentatore, mannaggia. Ogni tanto ce n'è una. Oh, vabbè, ma se potrebbe essere anche impossibile, se lo controlla. E infatti, perché io un giorno ho aperto il mio, il piccolo, e ho visto che dentro c'è un fusibile tipo quelli di macchina. Sì, ma quello vuole sostituito oppure ci metti un pezzo di carta stagnola e lo rimetti dentro ed è tutto cappa. E infatti speriamo sia quello, così almeno risolve anche lui il problema. Cappa. Io adesso sto passando da qui perché poco fa si sono sentiti in via Pasto le ambulanze, macchine di polizia scendendo a tutto motore. Qualche cosa sarà successo? Infatti, mi sto facendo pian pianino la protezione, adesso sono qui di fronte alla fattoria, perché prima era cosa di ambulanza e vigili del fuoco. Cappa. Oh, per essere la fattoria se ne va una bomboletta, C'è la stufa? Dimmi, Paghe. Ho detto se hai la stufa attaccata. Copiato. Dimmi, Paghe, ero distratto con mia moglie. Avanti. Ho detto se hai la stufa attaccata. La stufa attaccata? Dove? E mai in macchina? In macchina. No, quello è a casa, fisso. Ah, positivo. Sei liscio allora, dai. Sì, in macchina sì. Dovrei fare mille collegamenti per attaccare a lui, prendere corrente dalla batteria, o ancora ce ne vuole di tempo per fare quel lavoro. Cappa. Già, va bene allora. Andà bene Neda, sono arrivato qui al terzo pettine ed è tutto a posto. Come ti arrivo, quali coordinate? Santiago Nove, vai. No, la radio mi interessa. La radio va sempre bene. Cappa, adesso giri per andare a Porto Torres. Cappa, adesso gira a sinistra e vado verso la rotonda. Positivo, così mi fai il controllito fino a Porto Torres e vediamo se riesco ad accompagnarti. Mamma. Positivo. E Veronica Brava sta facendo? Sì, ti ha risposto lei, sì. Ciao Veronica. Ciao, bella beccia. L'ho sentita, Cappa, no, già è tranquilla, è tutta presa guardando dal finestrino. se quello che sto pensando io già funge bene. K, è più lungo di quello che avevo prima, eh? Lo stile è molto più lungo, lo credo bene. È abbastanza leggera come antenna. Infatti, cava. Una serie su che andiamo? Positivo, c'è uno stilo leggermente più grosso, così è. Sì. Allora è quello che sto pensando io. Andiamo in caramba, che sorpresa! Lì ci vorrebbe Raffaella Carrà. Caramba, che sorpresa! Mi sono sempre in ginella, Ci vogliono anche quelli, già ci vogliono. Ah, sicuro, ma ci vogliono quando ci sono loro in giro. Che tranquillità. Cappa, che sta chiamando Giuseppe, avanti. Luta, a Valvolina, buona, entria. Che dai, grazie. Ehi, è nuova. Adesso la ricontrollata è buona, ce l'ho rimessa. Ha attaccato lo zodia che non accende niente. E allora bisogna farlo controllare quello, grazie. Vabbè, continua a parlare, che prova a calla questo alimentatore, lo Zodiac. Kappa, eri Kappa. La gente c'è in giro. Ce ne sono macchine, stanno descendendo, però anche Pullman e Gran Turismo fa che... Allora buono, vuol dire che il turismo sta iniziando a entrare anche qua, Via, spendete, che ci vogliono soldi in giro. Già lo credo. Però quella cosa, se no non si canta messa, mi fai che senza soldi. Se no la cosa inizia a essere tribula. Ragava. Pace! Perché? È gufo, ame tu. Sì, dai, pizza, ma mi fai socio. È l'alimentatore. Perché non porti quello squattro grato in bomboglio? Strano, se l'interruttore rimane acceso adesso non monta, se gira la pentolina non so cosa. Provalo a vedere. Ma niente di strano, c'è qualche filo staccato, Se ti ha toccato nessuno, vai tra di bivo al buco in alto. Se no non tocca nessuno, è sempre per lo stesso punto. Sapendo, Graziano, non saprei cosa dirti. E continua, lascio questo, solo che due ampere che si cagli subito. È piccolo l'alimentatore, quello di così. E allora, di due ampere. È troppo piccolo, almeno quello da 5 ampere, 6 ampere. Non io, infatti, se c'è bloccato di 3 ampere, cazzo, mi fa vedere la stare in bocca, mi dava un Gio Maria, allora se ne è andata a passi, quindi. Ehi, cazzo, il gioco a prima, lo va a fare il trappo, tutto io, sa che vanno sulle palle bene, a corsa. A un certo punto le devi prendere uno sirio, che funzioni bene. Non saprei cosa dire. Riprendi Giuseppe, che qua mi ha chiesto questa cosa. Tu ti smonta quella così. Sì, alla rotonda non c'è posto, manco dove mettere gli occhi, non solo di mettere la macchina. Addirittura. Io Giuseppe, ti sei messo proprio in mezzo al traffico, Giuseppe. Anche perché? Ho detto ti sei imbottigliato nel traffico adesso. Lì c'è molto problema, Antonio. Devo uscire da quel tetto perché sono abbastanza coperto. Positivo. Mi sono accorto dal segnale quasi zero, La radio è comprensiva, ma il segnale non ne hai, Grazie. Buffo. Dimmi. E di quant'è quell'alimentatore che ti si è rotto? Tre sono. Quando accendo si illumina, però mi sembra non sentono vento là dentro. Adesso sto provando a cambiare la valvolina, una nuova che ce l'ho messo nella bustina. Ma non penso in nuova la valvolina, liscia. Prova a cambiare, a vedere, magari difettosa una valvolina e non ti può uscire, dai. Prova a cambiare quella valvolina. Mi sto facendo quello, cioè, ma adesso prima di smontarlo voglio vedere. Dai, così mi fai sapere se dipende da quello. Rose! Eccolo, Aldo. Beh, sempre bene mi occupi. Mi ascolti bene, José? Sì, abbastanza bene. Dove sei arrivato adesso? Proprio al centro della rotonda, sì. Sono qui nella rotonda, sì. Ho sentito. Masso di segnale, sì, ho sentito una un po' negativa. Positivo, zona negativa. Zona negativa perché anche tu stai arrivando in basso. Positivo accetto. Caffa, Antonio, io stacco un attimino, prendo una cosetta veloce, allora prendo. Ok, non c'è problema, vai tranquillo, fai il dovere, non c'è problema, già siamo qui. Caffa, come rientro faccio chiamata qui, Positivo, ciao, buona giornata. scivola appena appena. Guarda! Ma il passaggio lungo? 1, 2, 3, 4, 5, dammi crediati! Che mi saranno bruciati tutti e due i baracchini! Invece inizio passaggio, che non funziona! Purtroppo, vedi come c'è la situazione. Vabbè, quanto sta a prendere, a comprarti il tuo piede, ti do quello mio, quello da 23 ampere, e così che lo provi. E anche il tuo minore tu, ti hai attaccato a me, l'ho toccato, è caldo senza tu caldo, senza modula. Adesso sto mettendo il respiro, ti muovi. Perfetto. Piglia la macchina, vieni, se lo bussi, finché anche noi c'è la figlia a tirarsi, vai. Tanto lo vuoi fare la mano, non so contro te. Quando c'è la figlia a tirarsi, ti do un grumì, vai. Ma adesso no, domani, che devo uscire, devo andare all'ospedale, se ci sei, passo, va. Ma telefona prima, perché io pure devo uscire domani mattina e forse domani sera vado a Itchiri, capito? A portarci mia sorella, perché domani mattina devo andare a cucchia a cacca e devo fare quella trasfusione e domani mattina, e così che domani sera la porto a casa, capito? Telefonami prima di venire, capito? Di mattina vado a Piazza dei Sini, capito? Se vieni preso già mi trovi. Già non l'hai più presa, tanto non so più. Orino, a chi sapete, ma la mangiare devo accompagnare pure al mio fratello, che era ricoverato oggi in uscita, domani lo devo buscare a medicazione di nuovo all'ospedale, all'infortunio, a chi sa bruciato la faccia tra i. Io ripeto, no, mangiare non tagli tese, direttamente sempre, sennò ti tagliare prima fare la campagna, prima di mangiare, e faccio mezzo di, qualche cosa, semplicemente, non ti si affacciate, allora, ragazzi, mangiate, mi sono fare la campagna, sto cazzo da vada in campagna, così che... Sta chiamato lo vedi. Vabbè, comunque. Vedo fortunato. E adesso che cazzo? Domani a mattina abbiamo messo verso l'ottimento di nuovi. Così che si siedi verso prima a chi sora? Già so che ancora in casa. E anche un attimo, stacco questa, attacco l'altra, vedete. Se le ho messo gli spiriti. Ehi! Alle coppe! Ma spegnilo che non stai uscendo bene, mamma mia, bruci tutto, grazie, spegnilo! Chi è che chiacchia davanti? Don Mari! Don Maria! Ok, un attimo, grazie, che per Natalino c'hai già me. Un attimino, entro subito, grazie. Non ho capito Natalino, ripeti. Non ti ho sentito, è molto QRM che Natalia. Allora ti ho sentito bene, adesso invece non sei arrivato, vediamo un po', grazie, ma tu lo senti a Natalia. Riprendi tu un attimo. Buttalo via dall'avventatore, non attaccarlo, grazie, che bruci l'apparecchio, non attaccare, attacca altro. Perché mai sta uscendo? Male, stai uscendo, grazie, spegnilo! Non l'attaccai, se hai messo il palo di no, dai, bruci tutto, se scendi male. Come male, è così? Male, stai uscendo male, dai, grazie! E quell'altro? E l'altro andava più bene! Perché questo è più grande, attacco l'altro! Sì, dai, attacca! adesso. Ah, uscite al bagno. Ok, adesso ti ho copiato benissimo. Ehi, sta arrivando bene, bene, adesso, in questo passaggio che ti ho copiato perfettamente. Come ti arrivo, Dimmelo, dimmelo. Ah, sono contento, va benissimo Altari, dai. E ci ho copiato bene anche a te, dai. Non è che sia forte forte, però stai uscendo, ti copio abbastanza bene, dai. Ok. La chiaro ha bruciato l'alimentatore, avevano attaccato l'asino, vedere che è tutto un ralco. Cazzo, vai a me, torna. Ehi, Santiago 5, sì, Sì, Santiago 5 è radio 3 e mezzo, 4, però riesco a capirvi, nonostante un po' di QRM che c'è. Arrivi, Natà, arrivi. Ecco mai, il turnese aiuti. Eia. E allora abbiamo compagnia là. Aspetta, Graziano ti attacca la telemetratore. Si sa se esce bene, là, vediamo un po'. Grazie, ha attaccato là. Eia. E ma adesso lo facendo male, prima stavo facendo più bene, dopo ha cambiato l'alimentatore e stavo facendo molto male, ma male veramente. Evidentemente era sotto alimentato il barattino e stavo facendo male. Tutto rapido, passo e rapido. Prima sì stavo facendo più bene. Ok, grazie. Canta. Ah vai, zaffalata. Avanti, Atta! Com'è la serata? Bella lì, sì? Adesso un po' di propagazione ti ha coperto, Ti ha coperto un po' di propagazione che c'era. Fischietti e fiacchi. Ok. Allora, dove ti trovi questo punto adesso, vai? Allora, adesso cominciamo a arrivare più bene pure, là. Speriamo bene. Ok, ma che fai? Ma è quell'ultimo nuovo che avevo preso con il paracchino, sì? Ma che fai? Stavai. Ah, stavi da zicco, lì c'era avuto magari un M300, forse avrebbe un po' fatto di più. Io pure ce l'avevo quell'apparecchio, l'ho venduto al Leone, quello di Cirino, l'ho dato. E tanti macchine non le metto più, sicché gliel'ho dato, gli serviva anche a lui un piccolino così, occupa meno spazio, e vanno bene veramente. E ripeto, i canali te li cambi dalla manopolina e se lo trovi l'M300, è una bomba, perché io l'ho provato una bomba con l'M300, capito? Può darsi pure che si riesca a trovare anche lì, eccetera, capito? Bisogna controllare bene il computer. Oppure su 5 elettronico ogni tanto qualcosa c'era, capito? Qualcosa c'era. Comunque se senti qualche MC60, fammelo sapere, usato però, Ok, aspetta che c'è Graziarito. Graziarito, avanti, canta. Ehi, canta, va, prova come si l'ha potuto canto. Poco di canta, va, posso camminare. Se si brucia tutto si l'ha potuto. Perché? Ma tu invece... No. Tu non stai andando a rovinare l'alimentatore. Perché c'hai? La camera è qua attaccata. Qui c'è il baracchino. Tu e quel mezzo non so niente, grazie a... sotto alimentato. Ma forse un alimentatore di facile, capito? Devi anche calcolare questo coso, capito? Adesso per esempio, quando ti compri un alimentatore lo compri come si deve, in modo che puoi attaccare sia la camera ecco che il baracchino. Capito? Ma se no non va bene con 2,5 o 4, non va bene. Ok, vedi un po' se copia Natalino, vai e chiamalo, vai. Attento Natalino! Lui ti sente, grazie. Davvero, se tu magari non lo senti, un po' ti senti pio pio, però ti sente, capito? E beh, in realtà è senza radiale con l'antenna, glielo crede. Poi anche sotto alimentato, e cosa vuoi, non si può pretendere niente, capito? E ma andato come te alimentatore, ma non andato. Vai così, Graziano, mettiti le scarpe e i pantaloni e vieni qua, quello è mio provvisoriamente, aiuto. No, non c'è adesso, Marco, parlare di altri sono qui, cari lui. E ieri, il turnetto pure ieri, no? Ah, pigliati, si imbecille, ritirati con la ripilata, no, poi usci, si va tutta la faccia bruciata, cosa è il turni? Io domani mi devo avvicinare, sono già due giorni che non ci vado, che ho avuto da fare, e non si può muovere la cucchia a cacca, e ormai non c'è niente da fare. Non sta bene, più male che bene, per cui è sempre coricato, c'è sempre la gente notte e giorno, e non si può lasciare solo, tutto lì. Purtroppo sta toccando a lui adesso. Capisci, io non sapevo che fosse in quelle condizioni, ho saputo così tramite, sai, la nostra sezione, che non stava bene, ma ho detto quando sento Gio Maria glielo chiedo, porca miseria, e vabbè, niente, adesso ci organizzeremo e andremo a trovarlo, almeno quelli che lo conoscono, insomma, quelli che l'hanno conosciuto soprattutto a me. Ti ringrazio Gio Maria, se lo hai che riesci a darle un saluto mi fa tanto tanto piacere, almeno quello, io appena mi libero cercherò di andare a trovarlo, doverlo sperare a casa. Tre mesi fisso già adesso, prima magari andava e stava 15-20 giorni e dopo rientrava a casa, però adesso è inutile a portarla a casa, non c'è da fare, deve essere sempre sotto controllo, capito, e così via. E al Palazzo Rosso, dietro il Palazzo Rosso, al settimo piano. No, al settimo stavo sbagliando io, al quinto clacla. E dunque la camera, mi sembra la seconda camera a destra andando. Però lo fanno entrare sempre all'orario preciso, dalla 1 alle 2, dalle 7 alle 8. Prima di andarci non ti fanno entrare per la sorte. Comunque, vai pure perché gli fa piacere, a me mi ha incaricato di salutare gli amici, se vi sentivo, ma non te l'ho sentito fino adesso, non ho potuto darti saluti a tutti, ecco, a salutare gli amici e così via, capito? Tutto lì. Comunque, è al conto piano, al Palazzo Rosso, ok? Grazie Gio Maria, grazie, veramente. Comunque se tu dice che andrai appunto in questi giorni, mi fai la cortesia di darle un caro saluto. Non aggiungo altro. Ok, poi adesso tanto abbiamo la riunione la prossima settimana. Avviso tutti i colleghi radioamatori e ci organizziamo per andare a trovarlo. Ti ringrazio Gio Maria, buon proseguo. No, io non ero in radio in questo periodo perché stavo, non abito più giù in via Pascoli, sono tornato su a Carbonazzi, quindi tra sistemare la casa, cioè i muratori eccetera, ho perso un po' di tempo, adesso ho risistemato un po' tutto, quindi magari già mi faccio sentire. Ok Giovanni, ti ringrazio, ciao Graziano, ciao Natalino, se mi ascolta, arrivo. cambiato, e domani ci vado e lui saluti, infatti ogni tanto mi chiedo e glieli do, anche lui mi dice sempre e saluta gli amici, troppo è così, e non lo riconosci più, dovessi andarci, non lo riconosci più perché di che ossa non ci sono, ciao, grazie, ci vediamo, buon finimento di giornata, ciao. Ciao, buon proseguimento di giornata, ciao ragazzi. Grazie a me, anche a voi, dai, proseguite pure, già sono qua in ascolto, cappa. Cappa di Roggero, io la carina non lo sento, Giovanico, quello là lo sentivo solo, quello là è più grande, come ha parlato, e assorbe di più, e riesce di male, ma è tutto. Questo è appena più piccolo, però, si soccombe, fa vedere, si sciuglie il burrisco. Ma se te l'ho detto, bisogna stare attenti, fatto su perché non servono questi anni. No, servono un per mese, cosa fai? Due per mese, non fai niente, perché ci sono due cose attaccate, la camerecco e il baracchino. E non credo che lo bruci, è anche per cose che ci brucia anche il baracchino, anche, capito? Perché sotto è mercata. Ok, comunque vediamo un po', oh, adesso mi sento un po' bene, ecco. Vediamo un po' se è Natalino più vicino adesso, ma tanti sì. E io adesso sono più vicino, sono vicino a Rosa Tobetti, ne va. Sto girando per venire a Sassari. Adesso ti sentiamo perfettamente. Oh, ti sentivo bene anche a Romagna, è benissimo ti sentivo, ma adesso è tutta un'altra cosa. Grazie, adesso devo sentire anche tu, vai. Cappa di Rogero, ciao Natalino, ben sentito. Cappa. Ciao Mari, ma guarda che la camera è collegata in questo, nello zodiaco. Quello là è solo il baracchino. Però è più umano, visto, capito? Magari ci vuole più potenza a confronto a questo zodiaco. Grazie, una anima cattura a due e mezzo non va bene per... Sì, così, anche in recensione potrebbe andare, anche fare un passaggio così, corto, ma se tu fai passaggi molto lunghi, si brucia tutto, si scioglie, si capitola. Ecco quello che voglio dire io, che non sforzarlo, cerca magari di fare passaggi più corti e... finché non avrai un altro più grande, capito? Ecco, è tutto lì. Natà, come lo senti a Grazzarito? Adesso bene, lo sentivo anche al bagno io, quando stavate parlando, che io stavo ero sulla strada di Santa Teresa, mi sentivo a tutte e due, capito? Però Graziano si deve buscare un alimentatore dove si deve, se no può rischiare di bruciare anche la parecchio, no? Non fanno. Perché non te lo compri uno di quegli switching da 30 ampere come quello che ho io, piccolino piccolino, cosa vuoi che costa? Una sessantina di euro mi pare che costa. Ed è va bene, va. Così puoi alimentare un po' di cose. Quello lì non puoi fare, anche quanti cazzo di tempo mi avrà, e comincia a andare a cacciare il tempo, dove era la cassa che dice così, sta diventando la vita. Infatti la parola giudice a me si dipende da vetro, invece l'interruttore si illumina. Quell'apparecchio per 5 watt deve avere almeno 3 ampere, da 2,5-3, e sono pochi, vuole andare al tempo lo crepi, se ne compri uno è buono, di quelli 30 ampere, così non si affatica l'alimentatore, c'ha la ventola sua, si accende e si spegne da sola, capito? Quando raggiunge quella temperatura la fa partire la ventola. Girava il commutatore dell'antenna, tu capi? No, non è che c'è di attaccare le spinotti. Invece adesso con questo devo attaccare, ma è minoretto, è 2 ampere, neanche 2 e mezzo. Ma non basta, ne sono troppo minori, Zora. Sono troppo minori, grazie. Ciao, Falchetto. Ciao, Lottari, ben entrato, ben sentito, ben tutto. Dove sei, in Ginella? Di rientro a Sassari, ero fuori Sassari, ero. E sono di rientro, sono sulla QDVT in questo momento. Positivo, positivo. Andrà bene, Mela, va benissimo. Ok, dai, riprendi tu la taria vaccinale, dai. Sì, cappa, già lo sai che mi devi pagare il caffè, già. E io già lo so. Carissimo! Carissimo, Natalino! Prendi, giovani. Dove sei arrivato, Lattaresco? Comunque, buonasera, sentito qualche. Dimmi dove sei adesso, Lattaresco. Adesso sono al semaforo della Budivuti, quello all'entrata proprio di lì, del latte dolce, là. Il semaforo che c'è all'uscita proprio per andare al chilometro, là. Ho capito. Perfetto, allora, vicinissimo, così che siamo lì. Va bene, va bene. Allora, qualche... cosa ci racconti? Ehi, vedi, Giovanni, riposando oggi perché me la sono presa, riposo, perché domani traballo fino alle 20, 20 e mezzo, così che mi devo riposare, dai, tutto qua, Giovanni. Niente, poi tutto il giorno a casa, non ho fatto niente di niente, siamo qua a casa. Dio, che bello, almeno ti riposi per domani, senz'altro male, ma a voi così che sei già riposato. Allora, grazie a me, io, dimmela tutta. Cosa tanto è a fare? tutta. Ma infatti, se tu adesso non tocchi, per la realtà sta bollendo. E l'ho visto quello piccolino a 30 ampere, e piccolino quanto l'ha rimandato lei, quanto un rosmetro è, ce l'ha Tonino, piccolino piccolino. Tanto lui ce l'ha preso a 30 ampere, è piccolino è, ha pegato la mano, aveva 30 ampere, poi ci dico, fa 45 capito e mano, mi pare che sia 30 a 25, ti puoi immaginare? Mi si immagini, lo dì tu, c'ha amperometro, voltometro, è una belva, pure c'è piccolo, è potente, capito? Infatti, ma vanno bene anche questi, c'ha due strumenti, amperometro e voltometro, capito? C'ha due, quattro, sei attacchi anteriormente, c'ha, e due dietro, ti puoi immaginare. No, no, vanno bene, che c'è una cannonata, sto uscendo con quello, per cui, 40 ampere sono comunque. Avanti, grazie, carta lì, grazie alla polina di tutti, riprende qualche. Oh, io, poverino, poverino, ce l'ha proprio già andata, già. L'ho detto, ne ho uno io da 23 ampere dell'Intercity, altro non lo so usare. Finché non se lo compro, te lo do e te lo usi, quello. E lì che non aggiungare, ma allora, non usare isso. Ebbene, Fritti, se glielo vuoi prestare, è un attimo, se fa la scappatina, se lo prende, se lo usa, quando sta a comprarsene nuovo e ciccia. Perché così non può stare, no? Un 2 ampere cosa fai? Non fai niente, no? Se non è che stai ciambendo dei veleni, vabbè, dai, qua tanto non lo sto usando io, per cui glielo presto. Ok, grazie. Ehi, dimmi! No, non ci salgono, non la giocava, Bruglia, la capisci? Se no mi viene bene domani, già passo dopo domani, là, vediamo. E me lo lascio così, l'ascolto, lo uso poco, là. Ma come fanno i camionisti che non sentono più il suono della tromba dei profumi, capi, dalla mattina alla sera? E che per noi non è anche giusto, però, come fanno adesso che non ti sentono, ragazzi? E allora rimani a mezz'ora, come ti dici, da mezz'ora a prendi, così mi dici, numero, a prendi e ve lo dico. Natale. È una scena, Ghigio Graziano, è una scena, E ti rega di caramellato. Ciao Maria! Chi ti rega di caramellato, hai diritto? Ne ho anche uno piccolo che era nel televisore, piccolino, di quelli minori che mi portavano nel camion, quello lì. Non attaccare, fai passaggio, ti corti con questo e finché non ti porti via questo, va bene. Non attaccare, se ne metto attorno al seghissi, fai passaggio, ti corti, capito? E di chi non attaccare il miglio? Avevo provato con il portatile, funzionava, però con il portatile, con questo no. Ma non ti va. Ah, io riprendi i pacchi, riprendi. Io mi sono cacciato oggi. Oggi vado a vedere il puro fumo a Pozzuzzoro, quello che dice Giuseppe. Infatti, no, grazie. È vero, non attaccare perché... Io non l'ho sentito perché sono qua in Via Italia e non l'ho sentito, qua c'è un disturbo, sento solo a te Giovanni. Ok. Avanti, sei in giro, sei pigliato di sole? Tu sei? Avanti, buonasera Giovanni. Ho detto in giro pigliato di sole, sai? Poi passo in QRA con la piccolina a prendere un pochino d'aria di mare. Va bene, bisogna portare sempre i bambini in quanto si accontentano e poi specialmente il mare piace ai bambini. Ok. Molto bene, riprendi la grazia, dai. Ciao Giuseppe, adesso già ti ho copiato. Forse sto arrivando, grazie. E sono statue! Chi vede che con l'influenza è a capo? Chi non è bugio e non può cantare, quando è bugio canta! Cazzo, pare Mussolini, pare un braccio, l'ala dritta, dritta! Come? Buonasera, grazie. Allora, non ripira lei, no! Ma dito, basta, ha comprato il gufo, ha dato 26 gufo, è bellino qui! Grazie! Dai, che abbiamo la vostra femmina! Capita, sembra una cornice di femmina! Ehi, mi l'ho messo sopra! Chi va di allogiare lo cinceresse, cacca? C'è la voce portata anche nella braghetta, tu sei della frase. Che bellino, mi hai peluche, poi è rimasta, noi le rinchinisti. Capita, riesce a vedere, è caro. Per culo al sento, qui c'è un gruppo. Basta, lo cinceresse, vabbè. Ora che ripeto io lo sapevo, ma che proprio non ci sono questi nomi. Ma è già precisi, come ti dirà, che colore mi dà grazia. No, no, è proprio uguale a un gufo, è marroncino, grigio, c'ha la barca bianca, non si chiede, bianca, marroncino, lunazzo, loci, la recce. Ciao Giuseppe, ben sentito. Io sono qua in ormai volta l'abbiamo fatta e per oggi va bene così. Pian pianino siamo andati e ritornati. Va bene così, dai, anch'io sono tornato poco fa, ero fuori Sassari e me ne sono tornato. E capa, perché poi comincia il traffico e non va bene. Sì, infatti, ma tu vai. Invece adesso siamo qua, in via di Sicilia, tra 2 minuti siamo a casa. E la voi, che forse hanno i volentieri come vogliono, perché io quando sono a casa sono troppo bene. Va bene meno, va. Va bene. Io vi saluto che stiamo scendendo, io e l'amico Falchetto, già ci sentiamo alle prossime, là, più tardi. Ok, ci sentiamo, ciao. Cappa, ci sentiamo, ciao Mappalì, ciao Falchetto. Io fra 2 minuti sono proprio qui di fronte alla chiesa del Sacro Cuore. Fra 2 minuti sono arrivato alla Maisonne e poi riprendo la casa. Giovanni, ti saluto. Buon proseguimento, ci sentiamo dopo. Il tempo di sistemarmi e salire a casa. Ok, ciao, ci sentiamo alle prossime. E beh, Giovanni. Aspetta un secondo. Ho sentito la signorina, salutamela. Chiacchierando fa con Anna, la mia nipote in cucina. E l'ho sentita dicendo qualcosa. Allora è indaffarata, lasciala fare. Calamitegni, Lasciala la metà. E tu lo senti alla metà. E allora? Divino che fanno, se ho più qua. E allora, ma di tutto non ti cuffareggi nulla, ti rampi tutto. Hai te, ma lo sai come deve andare, ma con la voce in zaffarato moneta. E allora? Ecco un po' cosa ti ha detto. E ho meno come ti aiutano di vivo. Ehi, c'è la mente l'uccidente, tu pronto, Lasciala qua, lasciala qua. Grazie a te. Tu, invece c'è la metà e c'è la mente nell'uccidente. Voi se dite di Mario. Sono indaffarati tutti e due. Ma sono riuscito in fare in macchina. Perché Giuseppe ha chiuso, è arrivato a casa sua ed è in casa sua anche lui, capito? L'hanno salutato. E così di. Sto badigliando, capito? E pensare ancora, ma con i genitori anni. Magari hai mangiato troppo, hai fatto poco movimento. Se Giovanni deve accompagnare pure alla Brandiglio, a chi se deve andare prima di nota all'ospedale, poi lì al pronto soccorso a ritirare il foglio per portarlo all'infortunio. Io che aspetto che metto il cuffio che ha chiesto la televisione, no, che grazie. Ok, lasciamo lasciamo mettere il cuffie. Ehi! Eccoci qua. Ehi! Resta se ne hai le cuffie. Ehi! Ho cambiato il baracchino pure. Si sente? Ehi, ok. pensa che l'altro c'ha lo spinotto del suo palazzo parlamentare e tocca fare un caso a girare, da loro ha attaccato questo che c'è la frontale, capito? Ma adesso vedi, sente bene, è chiaro chiaro. Meglio così, meglio così. Allora oggi eri tutto indaffarato, no? Ma come ti ha fatto bruciarsi la faccia tuo cognato? E fratello, che ci travaglia da marcito, con un cammello, e la tagliente, un visore, i molloni di una gibbi, demolendo la rossa, però mi capisteggiano i bulloni, no? Un poco male, il mister Carlo Marco Draghetti, su Federico Cicconi. E mi dà per vederle queste cose, purtroppo. Speriamo che riesci a sapparsi subito e che sia tranquillo, là. Ma sempre avanti bisogna via appena ripassa, perché da quella lì fanno la ricostruzione della pelle e tutto, capito? Oh, bisogna via avanti ripassa, chi cazzo va via la faccia, fai a pallone tutta bruscicchio, come ti danno un pochino e l'uscino, tutto così. Adesso già gli si è abbassato il gonfiore, ma l'ultima già si vede che cuta la gara. Ciao Clivia, argomento. Purtroppo, ma speriamo bene allora. Va. Ecco, allora fallisci i tuoi rimani lo fieri, cazzo, intenzionalmente tu eri che sta allora a dire, così è. E allora, vedi da benissimo, avara, le rimane di posto permanente, mi cazzo, così, anche se magari si ricostruisce qua il petto, per dire, rimane sempre sfigurato un po'. Ma infatti, è un po' di picchere a scomparire, la bruciatura è così purtroppo, ma... Se facciate una creato sulla sudanno magari grazie per la forza piano piano e purtroppo la cicatrice che rimane, ma anche la bruciatura così è brutta, ma brutta veramente. Speriamo bene, dai, grazie. Troppo cose sperate, grazie, troppo cose, e la disattenzione, e la disattenzione, ecco. Non dovrebbero succedere, ecco. E infatti la voce ha visto, cazzo, noi la minore, noi la buco più mano di me, non hai no mano, cazzo gli scritte, ma con la fatta apposta, cazzo pulisci fuga azzurra. C'era l'aspirazione in funzione, stava aspirando la polverina, già era tutto pieno dentro, più cosa stava aspirando, ha fatto quanti con combustione, no? Ha guardato sull'accendino, è esploso, si era tutto gatto, secondo 100 metri, lontano, tutto incendiato, ma pareva una palla di cannone incendiata. Dai, oh, ma speriamo che ci provata bene, grazie, aiuto, dai. C'era qualcuno sotto, propagazione, vediamo un po', un attimo di fiacco, grazie. Alicetti? No, un vecchio, mi viene di più, se sento di più con questo, no. Educati si alimentatori e puttini. Posso immaginare, verso una freddata, dai. Magari, fermati, magari 5 minuti, dai, si raffredda, dovrei cominciare. Già da sassissimo, grazie. Ma lo spendo. Beh, ovvio, no. Tra 5 minuti dovrà sentirlo, dai. Ma quei tempi qui periodo freddo, si no uia no, caldo non c'è, so che maglietta e si sta bene, non c'è quel caldo come in Chiu, là, ma si sta bene, però ricorda stava si è abbassato un po', io prima me lo bussicava lo solo il buco in pieno si arrivava a Chino che l'hai mettato magari il suo caldo che l'hai scritto qui la parte subito quando scaldano così per carità ragazzi e cuscinetto mi l'ha cavato dagli pizza grazie oh vabbè là lo spendo tra 10 minuti che ora vai abba. Allora sono dunque le 7 meno 20 dai le 7 meno 20 sono e adesso te lo accendo la chiusa per portare a me mi raccomando poi ti rinfrizza grazie se l'ha presa subito come il tuo giorno l'alimentatore ma la chiusa non è dopo tutto il pulsante non si sa mai ciao Grillo d'accordo va sentiamo dopo va. Ma lo sai perché? Perché se accendo l'alimentatore e poi accendo il baracchino, non si accendono, allora devi chiudere l'alimentatore, accendere i baracchini al cubattino e accendere l'alimentatore, allora si accende il baracchino. Perché presente perché è minore. La gratta si sente un priorio in questa camera arrosi alzai ma caffè pure signorata pure meno in brutti si sente già mamma mia come ti raccogli tutto sul microfono ragazzi tutto si sente infatti ho alzato il volume se no non si comprendono in mano va bene ma perché basso sono? No, se no non ti capisco io ho alzato il volume qua, capito? Se no non ti capisco perché stanno parlando vabbè, spegni tutto allora, vai se te lo accendo, va attenzione binario 45 ora da noi. Ehi, noi che abbiamo freddato assai, no? Ma tu dici, vuoi dire frizza che si fredda subito? No, non lo tocco, no, se ci sono un pulsante in voce, e da voi non andrà più nemmeno visto. Applicatevi. Grazie, vi ce la cosa sottile. Chi se danno, vanno a pigliare una cosa è in grazia di Dio, capito? Tu devi stare sempre, dimenti, lo stai sposti avanti, invece, io avevo avuto uno come ci si vedono, è stato tutto a posto, ragazzi, vabbè, a quanto allora va, piano piano, piano piano. Senza abbinarsi presto, ogni tanto la pausa e tutto andrà bene. Sì, ma la colpa non è manco la mia, no? Anche io quando la mi raccomando ha fatto tutto questo, è andato questo, mi ha comparato tutto questo, ha fatto tutto questo. Ma se va pigliato più male, ma a me la romantessi la busca. Invece mi ha detto che già andati a me, che se lo sarei sabbiati. E invece la vostra mi ha fatto piacere, io non potevo uscire, a chi si è andato, la sera mi veniva male, anche tu vai a pigliare un alimentatore. È andato la grazia, mi ha pigliato la 23 ampere, e ancora miraggio, costa mi piace da 20 anni e più che c'è l'alimentatore, ma è sempre che mi vedeva la faccia, già un anno fermo, però... cammina sempre bene, cioè si può immaginare, però tanto ha giubbato, più di 18.000 franchi ho giubbato allora, 230 o 240 ho pagato io, da 23 ampere, si può immaginare quanto costava allora. E mica questo mi sembra che l'aveva fatto, c'ho la fattura di questo nel cassetto, ce l'ho ancora, non ce l'avevo buttata, là dentro la scatola. Tutto che ci avevo pigliato, camera eco, alimentatore, per scritto tutto. E visto che mi pare che aveva pagato o 170 o 180, perché era della Intec, 3 ampere, ma io, se mi ha detto che mi pigliava più mano, mi aveva detto a pigliarlo più mano, ma io non ne sapevo, ha fatto tutto questo. Scusa, chi da voi dentro io l'ho aperto e non un uovo, di bruciato non si vede nulla. Magari una cassata la favorita l'ho controllata ed è nuova. L'ho cambiata uguale identica a quella. E non anda, accende solo la luce della lampadina dell'interruttore e buh. C'è il finale, c'è il finale, grazie. Dovrebbe avere un finale dietro. Oppure all'interno, capito? Hanno il finale, sono i finali bruciati, grazie, c'è poco da fare. Quelli quando scaldano, si assorbono parecchio, capito? Se li brucia, capito? È il finale, è chiaro, è nuovo, nuovo, ma c'è il finale bruciato, capito? È come l'apparecchio, anche gli alimentatori hanno il finale, no? Capito com'è la faccenda? Ehi, ho registrato un basso. Ma dietro dove c'è quell'alluminio per raffreddare, ho visto che ci sono due cose rotonde, devono essere vicine finali. Con due vicine si possono svitare, sarà quello. Ehi, quelli sono. Sono quelli, Graziano, sono quelli. Per cui, così che basta andare a comprare quelli e basta prendere la sigla sua e li mettiamo noi stessi, capito? Tutto lì, vabbè, c'è un break, fallo venire avanti. Avanti il break, pio pio lo sentivo. Avanti c'è un break, dai. Non da gana di tutto. È stanco, non è a voi da chiacchierare, capito grazie? Pigliamo la sigla e andiamo e compriamo da cose, da altri, e bisogna controllare, no? Si accontenterà col tessere e che è pesante, si sa subito se sono bruciato il finale, dai, se no funziona vuol dire che sono il finale, capito? Per cui non c'è niente da fare, capito? Però tanto avanti i giambi e da voi torna la stessa cosa. Ecco. Oppure magari chi si muore e farà, però devi comprare un altro lupo, un altro manno, in modo di tu per attaccare due o tre cose e non hai problemi di niente, capito? Ehi, quello sì, ma quelli ci sono i vecchini, bruciano, basta che li svito, vado e li compro uguali, al limite li brucio domanda, se li brucio pure più manni, se non li causa niente, loro lo sanno, capito? C'è la stessa grandezza e tutto, però magari più forti, più robusti, cosa ne so. Si fa, se no li mettevi più precisi, e vabbè, ha rivoluzionato da 20 anni e più. Tu devi vedere chi si dà la ciappi, chi si, capito? Non si no vi sono equivalenti, ya lo sanno loro. Capito? Però bisogna vedere, sicuramente sono due, allora bisogna vedere che hai bruciato, capito? Uno o l'altro. Bisogna distaccare via e prova con testere. Se funziona, se non funziona, capito? Se non funziona, chi se ne lo cavi e lo compareggi e distrubiati il d'ora, se non lo piatti tu, distrubiamo il moniero, capito? Non è un problema, ma chi se lo capito, a ciambapiri. Io anche tanto mi sono qui, mi sono pentano attaccato, si saranno pure consumati, Ma non sono tutti e due uguali, uno è diverso dall'altro, grazie a... Allora bisogna pigliare, il di destra fa un numero, il di sinistra fa un altro numero, ti disegni e non bisogna problemi, capito? E beh, me lo segno sia perché quando mi ha smontato il coso dell'autoclub tutti i fili me li ho segnati, perché in attacco dove c'è l'interruttore che si stacca si attacca dall'autoclub, non me l'ha già accorto, le ho segnato tutti i fili con lo scotch e sabbia guido di unire, sabbia a riattaccare la ruba, la ruba, me l'ha rubroculato. Io ho tre vecchi, la smontata e la girato lungo il suo lupo, chi si viene a me, tu mi si lascia la parte e uno mi la giudenza, chi mi messo di dritto, mi viene la guarnizione e tutto il lupo lupo. E non me l'ho fatto lui, che altro lo chiamavo, l'idraulico. Ma chi si è fatto a piazzarli, là? Allora, parliamo di animali questa sera. Sono fatti a piazzarli, però solo che sono isolati, Con isolati, grazie a... Infatti tu abbai da farmi una specie di come si chiama, una specie velo trasparente, ma all'interno, capito? Chi c'è l'isolamento, non devi bloccare la carrozzeria, capito? Ehi, c'erano i cittadini da 8, da 6 e i cappuccetti che grattavano il vento. Io ho una urla, svitati, gli ho messo lo scoccio, a chi giù ruglio e chi giù era ruglio, chi giù blu e chi giù blu, chi giù giallo e chi giù giallo, la beve le altre tre figlie, la disegnate tutti questi. Me ho procurato due o tre di quelli vecchi, uguali, li ho aperti e da tre ne ho recuperato un pezzo, che mi si via un resto, non si via c'è la lampada. Certo, l'ha già visto, 30, era la guarnizione, se mi a me me l'ho conservato, capito? E sono isolati così, non ce n'era di cosa bianca, perché già sono separati bene dentro quella scatola. Ehi, allora fai così adesso ne smonti uno, ascoltami, ne smonti uno. Disegni il positivo e il negativo, no? Perché se il negativo è positivo. Quale va su o quale va sotto, capito? Ecco, lo provi col tessere, capito? Se tu ammazza, da Simbovi non essere, capisci? Da Sorsegna il testo. Se non sono bruciati, non succede niente, capito? Ma va non importa, si la piglia anche su mai, io non me la continuo. Avrà forse a mettermi un capo vuoi, insomma. Domani a sera mi avvento e lo guardo. Se ne giocare, se no, quando la giocare non poco male. Va bene. Contento tu, contenti tutti. E allora, cosa mangio? Tesori con chi si imprega? Ma lui, cazzo, io mi dico mi murai gli occhi, con chi si impregato, un poco funziona, e barra io sono stato caro nessuno, tu hai ragione, io più bella tratta la cosa, e peggio anda, se la tratti male funziona che quando è nuova può succedere che si guasta anche la roba nuova, non è che tutto va, funziona a perfezione, no? Di certa volta anche nuovo potrebbe anche non funzionare bene, capito? Per cui come è una cosa, capito? Capita anche quelle cose, capito? Anche alla roba nuova. Va bene. Sai degli altri pure, no? Questi cose, devo. Per esempio, quello che ho regolato a Natalino, infatti quello erano bruciati finali. E io l'ho cambiato io. Non ho tolto. Sono andato a posare, mi sono comprato due, gli sono messo tutte e due nuove, uno potrebbe anche andare. Però villaggio molto diverso, più ascia appena, per cui sta sempre funzionando, capito? Contami, da 20 anni insieme a te si deve funzionare e poi se l'ha bruciato e ve la ci sabbati e già sta ancora funzionando. Queste cose bisogna insegnarsi, da voi se magari non per buono, volate qualcuno e si fate pure appoggio. Da voi, se voglio posso fare pure la marcetto, cazzo non vedi con qui che da demolita c'è stata la mondezza, allora l'alimentatore che vi sono 30 minuti, non me lo compreggio, faccio una cosa in grazia di Dio, ma che presentabile che sta lì, faccio pure la certa mezzo, mi proprio buono buono, non lo metto in dubbio, però mi piace, mi ripiglio così, io rispetto, mi piacciono questi qua, almeno presentabili, no, diciamo, le liste le diciamo, capito? L'ultimo è sbigliato da 40 di caffè. Mi sono confessato al cartonino, al telefonema, io ho telefonato e tu ce l'ha tirato 30 ampere e me l'ha giubilato 40 lì. Una ghita era già in casa, grazie. Però io ho pagato dunque tra trasporto e tutto 120 euro l'ho pagato. Aspetta che leggo dietro cosa c'è scritto. Cosa c'è scritto? C'è il numero, grazie, ci sono i numeri dei finali, capito? C'è scritto Toshiba Giappone 350 e avanno veramente tutte e due, ci sono due vettine, quattro vettine là, si svizzano e nisce, e le svizzano il meglio precisi, sono precisi i numeri. Ecco, e sono saldati però ai fini, capito? e tu ti disegni, capo a destra, capo a sinistra, capito? Ti disegni gli attacchi come sono attaccati adesso, capito? E i componenti, a costa di poco, non è costino molto, capito? Io le dovrei avere, ma vai te che ne vado in Strasburgo, io le dovrei avere, ma se tutto. A che la voce mi ha dato una carta, mi ha dato la gestione regalata, però mi ha lasciato tre o quattro e avanti sopra il Strasburgo, magari capaci andare per pure visto. Non sono tutti uguali però, bisogna vedere il numero. E la massa, capito? Ma voi non deve essere fatti, capito? Tu hai tutto occhio, vuol dire che sono fatti a Tokyo, magari la macchina è Tokyo, però sono fatti in Italia, capito? Aspetta, vengo un minuto. Vedete, Toshiba Japon, giapponese, so. Potessi dare giapponese, però magari sono fatti in Italia, capito? I bici magari arrivati in Italia, capito? Come ci tante altre cose, capito? I bici arrivano ancora e da voi arrivati in Italia, oppure cosa dai occhi e andare pure alla TV, capito? E viceversa. Anche gli apparecchi, i baracchini in Italia sono fatti. No, se ancora sono fatti, va. Magari, andare a vedere se buttare una cazzata, no, intanto ci sono quei finali con Sarebobo, che se la sai. Poi specialmente di chi si è Sarebobo, là. Se preciso, non ti possibile, ma ti passi da Cusaro, ti dai più di due e ti dai precisi, ti dai altri. Capito? Oppure, se non mi sono preciso, ti dai equivalenti e ti rimuovono Martenze, capito? Non andare meno Martenze. Già lo so, è perché lo preciso lo cancillo, simile c'era, però non era di quella marca, l'ho preso simile, e andate a vedere me stesso. E direi, così, infatti, è irrisolvibile, non è uno, una cosa da non poter fare, capisci? Non puoi far pure tu. Volendo là, lo puoi fare anche tu, capito? Ah, nelle chiavi, dei controlli prima, a che potesse sia uno solo, ma tu da là sei buono, capito? Li provi, se funziona, se non funziona vuol dire devi mirare tutti e due, devi mirare tutti e due, mi sei buono, capito? Sicuramente c'è la liscia, sicuramente. E io già ne so. Ne smonto uno, tanti numeri sono qua. Andare in due, da voi, chi si capiglio, mi piace uno. E a vedere se funziona. Se funziona lo dico, se non funziona già un po' burlato. Uno mi faccia essere l'altro il sattone, uno va l'altro il tracorretto mi pare. Non me la metto, mi si tocca. Oppure direttamente due binari, boh, non me la metto bene. Ma si costa un po', io vedo tutti due a pigliare tutti e due nuovi e ci lavorano. Sempre che non funzioni. Ma sicuramente da qui, perché dentro no, lo fiago di bruciato non prende, no. Guardate, bruciatura non se ne vede da nessuna parte e la calda appena appena sopra dove c'è tutto l'avvolgimento, quel ferro che c'è, però appena appena, però se non funziona nel finale è logico che non funziona, perché la corrente c'è, se no non avrebbe acceso la luce, capito? Poi la corrente dove attacchi gli spinotti lì non ce n'è, non ci arriva perché ho guardato col cercapace e non si accende, compreso. Però la lucetta dell'interruttore accende, dunque la corrente c'è, però non la trasforma o dal riso, perché magari è dal finale. Io si ero fusibile interno, ma controllato un attacco, già Ah, ma senz'altro, Ghisio, vai. Graziano, è per questo la patina a freddi, no? Che è messo da un trasformatore a corrente arrivi. Allo spettacolo fare di corrente perché sono bruciati i finali, capito? Così che adesso notte non arriva la corrente, capito? Sento, se vuole qualche avvicinatore di 220 non ti attendi, no? A chi c'è 12 volte, 12 volte, capito, Graziano? Poi anche quella lampadina non è a 220, bensì c'è una corrente di me, non so, mi pare che sia a 12 volte al senso, no, Natalia? Ci sono quelle che sono a 220 e quelle che sono a 12. Così che puoi immaginare, capito? La ditta Capandino e ha provato con l'utessa a vedere se funziona. Ecco. Ma senz'altro sono chissi, capito? Di solito fatteli chissi, fatteli, capito? Poi come ci fai tu a vederlo? Grazie. Ci funziona l'acqua venuta di bruciato. Ma per forza anche all'interno che si brucia e tu non vedi niente, no? Ah, io grazie. Ma che ci discorsi? Liquidare, sì, no, ma sto dicendo, dove colleghi gli spinucci del malacchino, lì corrente, non ne arriva, perché ho provato anche con la ventolina che ne ho levato da dentro, no, a metterla direttamente agli spinucci, e non gira che non arrivi corrente agli spinucci, e dunque dipende dai finali, capito? La valvolina l'ho venuta, non ti compresa che non è partita la valvolina prima. Ma una valvolina per te, io grazie a Natà, sei fino a trovare. Se dal trasformatore esce la corrente, non arriva a... ai 12 volte degli spinuti, evidentemente sono i finali, perché sennò può essere anche il trasformatore crepato. Ma infatti, no, sono i finali, dai, sono i finali, no. Se no, ma quella trasformatore è uscita dalla corrente, quindi che è la ragione. No, non arriva, dai, il finale non arriva, non esce perché non entra e non esce, capito? Quindi che è la ragione, capito, grazie. Ehi, no, magari entra, anche no, perché la lampadina è a 220 quella dell'interruttore, allora no, se è mai dai finali, che non la trasforma la corrente, se no, se l'ha bruciato tutto l'indotto di Mudretto, non avrebbe acceso neanche la lampadina dell'interruttore dell'alimentatore, capito? Quello ti voglio dire io. Perché io ho provato con la ventolina, poi se l'ho levata, attaccarla appoggiando dentro gli spinotti e non gira, a chi non arrivi la corrente trasformata a 12 volts e dunque dipende dai finali. E ci sono con 3 ore di Dio, grazie. Sono 3 ore di cena, insomma, ma che pesci così? Sì, ma io adesso quando li copro glielo chiedo se queste finali si possono mettere più grossi, ma si può rimbolinare lì più potenti che a 40 anni di più. Ma non che ti bruciava se bestie, che ci sono altri componenti, l'equivalente puoi ponere, ma più grossi no. Ma è allora li più precisi. Natalia. Ah, pensai, hai carettina, latta lì. Mi sono facendo male un durrone, così, cazzo. Sei un sabizzino, cazzo. E allora, vuol dire fuggito latte, mi ha allungato il becco. Ah, tre chiarimentatori, mi sono ritrovati soli. Non trovati soli, vedi. Prego. Via, buonasera a tutti, dai, doppio Ruta. Come so fa, messi? Ciao, doppio Ruta, a lavoro stai uscendo. E poi mi devo fare travagliare. Anche la due. E allora, da qui in avanti devi lavorare anche la domenica per i turisti. Con la crisi che c'è. La domenica ho un lavoro, non ho niente da fare la domenica. Allora, la domenica lavorano le commesse che già, buonasera. Oh, basta, si trova 80 la chita pure la domenica. Ma insomma, è come se te di grigio, tutti come te, te non so, grazie. Tu capita, eri sempre accanito, trovava niente, capita. Cosa ne hai avuto? Non hai avuto niente. Povero eri e povero sei rimasto. Se è vero, capita, non è solo mia, né lo sabato e nella domenica. Quando mi riesco a trovare lì, la ottava e la villetta. Adesso è che lui è vivi. Ha detto mi era bene. Ma chi c'è? Invece mi dà un altro operaio, eri tu da mandare un ghiccio per straordinario, no? E allora, il padrone che ha dominato dove mi dice, ma non ha dormito. Vai, va bene. Un attimo, corrisci, grazie. Eia, doppio tu, riprendi. Eia, non è il mio lavoro, la domenica praticamente non si svolge, capito? Non svolge la settimana perché tutte le ditte sono aperte in settimana, eccetera, eccetera, quindi non è lavoro domenicale il mio. Cava, cava! Ascolta, un appunto, c'hai? No. Ehi! No, negativo. Già l'ho avuto anche l'appunto. No, già l'ho per se c'è un vero. Ah, perché stamattina ho intoppato un appunto tipo briglia, non quell'appunto come ce l'ho io. L'appunto di prima. Briglia con l'antenna o me la via. Pierpaolo è quello di sicurezza. Pierpaolo? Allora. Oh, era già sbagliato, Paolo non mi ha risposto. È perché c'avevo l'antenna abbassata. Va bene, mi sto facendo le grazie per pigliarmi le sigarette che le ho finite. Ma fanno il problema che stamattina non le ho prese. Io me le ho prese stamattina la macchinetta, un pacchetto da lì, che ha detto, ma non lo so se mi abbassa, io me ne piglio un pacchetto, me l'ho preso uno da 10. E infatti mi dice l'ultima del pacchetto da 20, me la so come. Che pagata, vabbè. Sì, ma siamo a prendere un po' tre pacchetti, vabbè, con chi so che cosa, come ti fa? Vabbè, allora mi sei già c'è il tabacco, la macchinetta e tu, non c'è problema. Poi vado un cigarro di Gedeoni, e poi c'ho la pipa, già sono attrezzato. A me lo cigarro non mi piace. Io non sono attrezzato per nulla, prima solitamente me ne tenevo due pacchetti a casa, più quelli che ne compravo per uscire e cose. Quando non li avevo andavo a prendere l'armadio di sigarette. Adesso non ne sto più comprando così, ma ne compro un pacchetto e buco. Ehi, e si parli di sciopero all'improvviso, come tieni la bici, eh? Non li fumo, grazie, mi prende più quelli che mai. Ehi, si va guanti, poca gente va guanta, e aggiunto io che fumetti si rubavano di rubare, tutta attuzionata si rubavano, c'è Maria, Petrolio Maria. Io non mi canale in Corsica, ho fatto la riserva, e che subito, in quel periodo che veniva lo sciopero, ha fatto la riserva in Corsica. E anche io me li aveva portati mio cognato, la Corsica, le Marlboro, e la giunta di un bel buco. Ma non invece la giubbadino, un triplo, la rimonia era uccisino nuda. Sì, un attimino, chi si prende prima le sigarette, grazie, a sono su. Eia. Ricco. Ma chi sei? Ciao, grazie, mi sentito. Cappa di Ruggero, comunque in quell'alimentatore sono il finale, dietro. I finali sono partiti, vero, grazie. Sicuramente sì, perché ho smontato anche la ventolina che avevo messo dentro, la lampadina, lei. soldi che c'era non è basta. Ho provato a filarci i fili della ventolina e niente da fare, anche se accende l'interruttore, perché si illumina quello si illumina perché è diretta a 220 con la lampadina dell'interruttore. E evidentemente la corrente entra però non la trasforma, capi? Dunque ci sono due finali dietro all'esterno con quattro vittine. Ne risvolto vado e me li compro domani o dopodomani. Che carta grazia, allora diciamo che in mezzo alla Scavogna non sei andato male, dai, che già non costano tanto i finali. C'è Graziano, ci deve essere anche Gian Maria. Buonasera a tutti comunque, sì. Vediamo che sono appena adesso, detto la voce di Giuseppe. Vi lancio il tutto a Graziano, a te Graziano, schiaffa al volo. Ciao, ben sentito anche a te. Eia, c'è anche Gian Maria, però sta rispondendo al telefono. C'era anche Lampadino, però ha chiamato ed è sparito. Non so se c'è, se è rientrato. Lo chiama bene. Negativo, c'è Gianni che è sceso a prendersi le sigarette e da Graziella sarà per rientrare. Riprendi tu Giuseppe. Cappa. Ciao Gianni Capri 2, mannaggia, ti ho suonato uscendo al bar rifornitore di Campomela venerdì. Sì, infatti ho sentito un clacson, e con la campo la macchina. Cappa, tu eri in vettura. Al Volvo che avevo. In Al Volvo, sì, stavi proprio uscendo, eri nella corsia di acceleratore del rifornitore. Poi mi hai superato il collega Allinie. Infatti, però Giuseppe, capito, in alto non ci vedo il cammino. Comunque Giuseppe, molto gradito, ti ringrazio Giuseppe. No, sto portando con Claudio, assieme siamo anche a Claudio. Siamo anche a Claudio, stiamo andando a Sassari, stiamo andando esattamente. Questo è la superiore di sera, ti confermo al centro. Giuseppe, qua si dice di bello. Già, si dice che oggi è domenica ed è da godersela tutta se non fondo, perché poi domani si ricomincia a fare. Infatti, noi oggi ho preferito riposarmi un po', e già ne ho se voglio andare, c'è una grande campagna, c'ho se voglio andare, sono in vento, lì c'ho la figlia, no, però non ci vado, ci fa sempre papo a metterci mano e adesso poi vediamo, quando fanno quelle giornate di andarci, almeno la dovete spogliare qualche cosa, se io voglio, se no, già c'è Babbo che fa tutto, lui le piace. Ok, che glielo fa fare a lui dopo tutto il lavoro che ha fatto, mio Babbo lavorava alle ferrovie dello Stato, quindi si potrebbe anche sedere e non fare più niente, ha 40 anni che l'ha volato, quindi se già ne basta, però lui le piace fare, riprendi, grazie. Due cugini di mamma che lavoravano lì, che abitano lì a diciamo a Santa Maria di Pisa, dove c'è la locomotiva, che quella peraltro la piazza da mio papà, quella locomotiva lì. Sì, io avevo anche due zii che lavoravano lì alle complementari. Sì, ma sicuramente si conoscono, Gianni, quando c'è stato 40 anni lì andando e tornando e viaggiando di sia di giorno che di notte per arrivare. Ok, quando lo però fa pure lo dico, io leggo, senz'altro, ma è in vita tuo padre, Giulio? Sì, sì, è ancora in vita. E allora già lo conosce a Papo, senz'altro lo conosce. Scappa di positivo, mi è sembrato la descrizione di un vecchio di sottofondo. Buonasera a tutti, dai, ciao Giuseppe, ciao anche Caprilue, con realtà siamo già sediti prima. Buonasera. Oh, ciao Gian, buonasera, ben sentito, ti sento un po' rauco, ti sento, cosa ti preso, qualche mal di gola? Oggi siamo un po' rauco, sì. Anche la sigaretta è rossa. E anche quello c'è, anche quello c'è. C'è la grazia, non l'abbiamo provato a chiamare, non so se sia sentato. Anche io ho appena cielo sento la voce di Giuseppe e poi, capito, solo che c'è Graziano Gusto. E rimettiamo il cambio, poi Graziano. Ehi, a capa! Ehi, anche un mio zio lavorava alle fare ferrate sarde. Che lo si chiamava? Dopo 40 anni era in pensione, 3 anni e se n'è andato. No, papà, grazie a Dio, c'è ancora bello attivo, hai capito? Qualche sacco già c'era anche lui, non è però, da ragazzino c'era, di un sacco di anni non erano stati anche riconosciuti, e proprio che quando è andato il ferroviario aveva, mi sembra, 18 anni, perché l'uno era ferroviere, la sorella di papà era in ferrovia, la cugina, capito, discendiamo da una famiglia di ferrovieri, Giuseppe. Cappa, e se non sono in bicicletta, Gianni, quanti anni ha tuo papà? Siamo a stare registrando, papà già 77 anni compie quest'anno, Giuseppe. Ehi, Cappa, papà è più grande, quando ne ha compiuto 82? Ok, c'è stato un prezzo, mi sembra che era il signor Natalino, sei tu? Eia, buonasera a tutti, Natalino 81, qua che sono arrivato adesso al QTH, ma come rimani liberato dalla loro presenza, che oggi cazzo era tutto pieno di gente qua. Ok, Natalino, oggi diciamo tipo scampagnata, io invece ho preferito non uscire, quando esco già esco quando voglio e dove voglio io. C'è Giuseppe comunque inutile elencare, e c'è Graziano Buffo, Dio Maria è al telefono, già ne do più, vai per chi vuoi, da. E prima saluto tutti, se no non voglio essere maleducato, saluto tutti, con la buonasera, vabbè, là, avanti già ne do più room. Ciao Antonino, mi hai sentito, Gappa gappa. Buonasera anche a te, io sto andando a casa, così almeno mi metto in stazione, sono andato a prendere le sigarette della Graziella perché le ho finite, se no qui io stasera. Il campo io ho fatto un giretto pure i Sassari, mi ha fatto, adesso me ne sono tornato, perché qua era pieno di gente, c'era tutta la sacra famiglia qua, hanno mangiato tutti qua, e io dopo pranzo sono uscito che dovevo fare cosa, c'era un appuntamento e quindi me ne sono tornato adesso, da. Ah, vagava. È una bella giornata oggi. Io ero di servizio, mi ho fatto la salsa di usino e poi ci siamo fatti una rostita giù. KK non c'è problema. Sì, anch'io ho visto che è una bella giornata. Sono andato in Gallura, sono andato e sono tornato. Ma non vuole di Gallura su KK. Hai fatto questo. E anche non mi l'ha regalato una gatturizza. Io non ne sapevo pure una gatturizza, io dicevo che ne arrivavo. E pizzina, era proprio la retta e via. Tu basta le immagini, va fuori a pascolare, non è portare le gandurese, giusto? Sì, per me io ce me l'ho buscata la gandurese, ma caspizzina io non lo sapevo che era quello più pure tu. Caspizzina, poi bisogna avere i rusi, no? Già la conservavo bene, mio ragazzo, non ti preoccupare. Guarda, c'è, non si sa mai ma vinto la puzzinuso. Pizzina. Buonasera, Natalauce. Ciao, Giuseppe, buonasera, ben sentito, che? Grazie, poi da Paolo. Ehi, perché non c'è adesso, mio? Ma è il momento, sempre di funzione, grazie. Sopra il rosmetro, l'ho parcheggiato lì, poco fa ho fatto sentire a Gio Maria. E cappa, è un bel molto carino come cosa, eh. Sì. Già è bello, già mi ha sentito qualcuno basso. Avanti. E basta che la mette lì un secondo. Cappa. Gianni, ok, non c'è problema, già siamo qua. Ah, va domani, c'è una giugana a salire, me l'hai iscritto su C2, il saldo e me lo compro, sicuramente dal finale. La testa non ne hai tu? Eia! Se ce l'hai il test, prova che nel trasformatore c'è la... dovrebbe essere 18 volt, da. Poi trasformando il tutto arriva a 12, 13 qualcosa. Per vedere se all'uscita del trasformatore poi c'è la tensione, dovresti guardare quello, così sei sicuro se sono i finali. Ma sicuramente sono i finali, perché con la ventolina... appoggiati il figlio e non funziona, non arrivi, Ivi, capito? Lo so che non ci arriva lì, perché se i finali sono bruciati non ci arriva, ma bisogna vedere se il trasformatore è buono anche, capito la cosa ti voglio dire io? Ma dentro l'ho tutto guardato, non c'è nessun segno di nulla bruciato, capito? E era appena caldo l'indotto dove c'è tutto il rame dorato, l'avvolgimento. L'indotto, quelle lamelle che sono tutte attaccate di ferro, erano appena calde sopra, un pochettino. E secondo me è il finale che è partito. Perché non fai nulla dentro, secondo me è finale, da quei 20 anni penso che si siano esauriti pure qui. No, a me mi sa che ha fiammato due pulmonatori, proprio un libero avvolgimento, che ha fiammato quello e sia quello in corso. E a questo punto conviene comprartelo nuovo. Capito? È quello, se era caldo il trasformatore è anche in corso. Ma non è eccessivo, no, normale, capito, non era caldassare, e poi segni come di surriscaldamento, per dire, non se ne vede nulla, e io penso che sia il finale, se no si sarebbe visto dentro, si avrebbe surriscaldato, si sarebbe visto anche dove c'è tutto l'avvolgimento nel rame, è lucido, come ho guardato tutte quelle altre, perché c'è un pannellino che ci sono dei diodi, un casino di cose, e sono tutti nuovi, secondo me è il finale. E tu prova, cosa vuoi ti dica? Quello è il circuito di raddrizzamento, quel circuito che hai visto lì. E sono applicati all'esterno dietro, dove c'è quel pezzo di alluminio con le alette per raffreddare, no? Sono lì dietro, ci sono quattro vittine. Domani o dopo, domani, se ne aiutano, le svitto, me ne pongo in bocciacca, quando esci me ne compare, tanto cosa l'hanno accattata. Ehi, e da quanti amperei quell'alimentatore? Quello me l'aveva comprato Antonello, con pugno, quando vi ho preso la camera, ecco, mi ha fatto tutto il suo etto, da 3 ampere. E domani ci vi andate a vedere, per un baracchino, però se incominci secondo me attaccato la lampadina, una ventolina dentro, poi c'è attaccato il baracchino e i fili della camera, ecco, che piccolina. È lo stesso della Intec, l'ha comprato insieme a quello, quella camera, ecco. E Cavani ha già acceso il casino, non sta male. Ed era Buzzolelli, vedi, tranquillo, una mezz'oretta, poi l'ho spento e mi fa guardare il televisore. Un 20 minuti, mezz'oretta, l'ho spento il televisore, l'ho acceso, la luce accendeva l'interruttore e il baracchino. Ho detto, cazzo, ho controllato, controllato, poi ho provato il portatile a vedere e non accendiamo anche il portatile, e allora fa tutto un alimentatore, no? Ho capito, ma se 3 ampere non ti conviene manco aggiustarlo, è troppo piccolo, va bene per uno di quei baracchini omologati che hanno 4 watt e cose, ti ha giudito cosa devi fare, ottimi buchi uno di inizio di computer che va 8 ampere, almeno anche se un baracchino è un pochettino grande già te lo fa alimentare. Oppure te ne compri uno da 30 ampere come ti ho detto io. Io qua ce l'ho ed è una bomba. Già me l'aveva dato l'indirizzo e tutto, San Video, perché lui questo vuole San Video quando se l'ha comprato, che era a casa sua, già è bellino, lo switching, mi pare l'ha fatto intorno alle 70 euro, una cosa del genere, con il trasporto e tutto, da Telecom, è piccolino, c'ha 4 attacchi, già è bellino, già l'ho visto, e c'ha un casino di amperaggio, adesso non mi ricordo quanti ne ha. Quello è più piccolino del mio, 25 ampere quello, cioè, però è preciso come cosa. Il mio ne ha 30 e l'ho pagato 60 euro, l'ho pagato in tutto. Telefoni alla Tecnocomunicazione e te lo fai mandare. In 3 giorni è qua. Già lo so, brava, mi devo indicare il suo foglietto dove me l'aveva scritto San Video. A vedere dove cavolo ce l'ho messo, perché mi aveva scritto il numero di telefono, tutto l'indirizzo dal computer. E se non te lo fai dire da Gianni che ce l'ha lui il numero, ma Gianni doppio lungo quando entra nella casa sua, te lo fai dire. Se no la guerra, ma i due o nel computer ti lo dico il numero di telefono. Allora vai così, a chi non fai mi figliura, gli sconfitti non può toccare più, se no avrei guardato. Aspetta che l'accendo, a Cerribonga di tiruri il numero di telefono, aiutami. Allora, attendendo, come ti carregheggia, ando in internet in presa e tiro buco il numero di telefono. Digliati una bella un pezzo di bambini intanto. Grazie, segnati il numero. Aspetta che mi prendo la penna. Mora, e così adesso io lo cerco e te lo do il numero subito, senza stare lì a tirare la lunga. Ce l'ho io sotto mano, la palla. Ce l'ha anche Giuseppe, figurati. Già si busca quel numero, ce l'ha anche Giuseppe oltre che Gianni. Io non ce l'ho, ma guardo nel computer e se lo trovo. Ma per un due Giuseppe ce l'hai duro il numero di Tecnocomunicazioni. Anche io sono 3 ampere non avevo manca conto, cioè è una radio. È troppo, troppo piccolo, e là 3 ampere va bene per un baracchino di quelli omologati, e c'ha 4 watt, così. Cazzo, ma si deve attaccare la roba, Guido, è meglio che se lo compri come si deve. Almeno non sforza e non è sottoalimentato l'apparato. Ah, lo sai dove li ho sentiti a Gian Maria e a Graziano Giuseppe? Dimmi. quella strada che c'è che da Santa Teresa ti porta a Sassari, che c'è a Luvagno, là, nel senso che uscita a Luvagno, lì, li ho sentiti tutti e due, di brutto, e ci ho anche parlato. Ecco. Registrato un breco, Falchetto. No, perché c'è Civas sul 45, per chi vuole ascoltarlo, se lo volete ascoltare sul 45, e qua è dove lo sta Sassari. Cappa, Graziano? Sì, sta arrivando Veronica. Graziano, ci sei? Ehi, dimmelo! 0248 70 6291. Aspettare di il modello però. Sì, avanti. Dato il PPC a mamma, adesso le notizie, perché stava arrivando dalla campagna, papà. Sicuramente ha detto PC. Cappa di positivo, Gianni Capri 2. Giuseppe! Di coso, nel sangue, capito? Video d'arte, ok, passiamo alle 45, tutti dai. Avanti, grazie. Zinchino, gli altri due, con la 45. Qui addirittura ho fatto due contest con i radioamatori ferrovieri, cioè due diplomi addirittura. Carissimo Capri 2. Attenzione, attenzione Graziano, se vai copiando Giuseppe che ti fa chiamata, cappa. Eia, asco 02 48 70 62 91. Cappa di positivo e devi cercare di Desiree con due finali. Desiree Tecnocomunicazioni. Il modello però se non sbaglio. Desiree, la segretaria è quella che gli devi dire cosa ti deve mandare. Gli dice a mandarti un alimentatore switching da 30 ampere. Adesso lo scrivo, switching. Yes. Ma 30 ampere gli dici. Quello da 60 euro. Grazie. Ehi, come si scrive? Su I? SWIGING. Switching. Grazie, scrivilo come si dice che è più facile. Scrivi direttamente switching, poi già tanto lì quando glielo stai dicendo già non lo legge. Eia, dilli così, e ti manda questo qui, che è una bomba, almeno cazzo li attacchi tutti e due e sono sempre alimentati come si deve. Allora io se telefono domani, ma arrivi venerdì. E allora, 3D lavorativi, in 3 giorni è qua l'alimentatore. L'indirizzo a Desiree, lui ci scrive tutto e gli dice che lo paghi in contrassegno, quando arrivi lo paghi a Rubustiaro, un corriere, là. Per via posta mi arriva, va. E allora il corriere te lo porta, le cediamo porta, capito? Gli dici che lo paghi in contrassegno. Lui fa telefono, lo fa a contrassegno. Eia, tu dici, sono amico di Natalino Melis, quello che gli ha preso un bel di roba, oppure di Gianni Doppio Rum. Eia, vabbè, è scritto. Graziano, quanti ampere ti serve questo alimentatore? 30 ampere già andava, chi ci va giù? Ampere in vendita se ti interessa. Sì, magari mi la vedi e poi. maschera. Boh, se ne sono con la prendi avanti, non è buono. Ah, tu ce lo stai usando. Basta che sia buono, e quanto lo stai dando? Eccolo che ci mettiamo la corda verticale. E quanti attacchi c'ha quello? Due o quattro? No, l'attacco a bananina, rosso e nero. Però tu puoi mettere quelle bananine che si possono attaccare anche altri apparati. Praticamente c'è una bananina che si infila la banana dentro, col buco, e la puoi mettere altri. E gli spinuti, ho io, i classici spinuti. Ma prendono anche quelli per col buco, si infila la bananina sopra, e ne puoi attaccare i due. Va bene, lo vediamo, lo fai vedere. E vabbè, no, se ti interessa, se non manco lo smonto. Lo sto usando adesso, capito? Va benissimo questo alimentatore. E che marca è? Centro di tenno, aspetta. Stai lì. Oia, chi è? Gianni, tu sei? E dirle che ieri abbiamo operato tipo i chirurghi a distanza, tarando a dirlo a Giuseppe. Ah. Avanti. E abbiamo operato come chirurghi a distanza, abbiamo tarato nei tessuti di un apparato, una bomba. Veramente? Anda benvenuta, l'importante è che sia tutto Roger. Buonasera Gianni Capri 2. Ciao Antonio. Ben sentito. E anche a Gianni, buonasera a tutta la ruota. Benissimo, almeno mi saluti tutti i figli, come Gianni stiamo aspettando, facendo conversare a poco con Gianni Capri 2. Positivo, positivo. Già sono in ascolto, già sono in ascolto. Saluta tutta la ruota, nessuno escluso. Scappa, buonasera di nuovo, Falchetto. Mi approfitto, mi hanno permesso di carica batterie. Io lo sto utilizzando anche per quell'alfa di massimo. E poi ne ho altri due che per questo mi ha regalato in pasta. C'è uno Zodiac da 3 ampere e un altro regolabile da 3 ampere. Non so. No, siccome proprio il baracchino c'era fermo, aveva una di quelle base, però non lo usava mai, solo per ascoltare, non è mai entrato in frequenza, e uno di questi era sicuramente l'alimentatore che usava, ma per me basta e avanza, in quanto le apparecchiature mie sono alimentate a quella 110, hai capito, quindi 10 secondo quello che deve fare Graziano, basta e avanza. Il mio Graziano è Alfa Elettronica e c'ha gli strumenti illuminati pure. Eia, e vabbè, ci sentiamo in settimana e me lo fai vedere, Non c'è problema. Ragazzi, comunque l'indirizzo me lo prendo lo stesso, cioè me l'ho già preso, quello dello Ciucci. Vabbè, come vuoi tu, grazie, ma c'è proprio il posto di cielo, se ti serve subito ce l'ho. Non ha più presa, no? Oh, non me la piglio tanto. Oh, veloce, diciamo, va. Già, per adesso mi uso questo, adesso vediamo. Vabbè, come vuoi tu, io te l'ho detto. Cappa avanti, Cappi 2. E anche il cavo va a bene, il cappello va super bene, c'è l'apparecchio e non deve attaccare molta roba, io, già, che roba alimenta quello da 10, che quello fa arrivare a 100, piccolino. Poi gli altri sono alimentati, per esempio il Miniram si è alimentato a 110, che lo a 7, poi gli altri sono due alimentatori, ripeto, da 3 a meno 1 e vanno alla grande. E ok, e chi tu ne ha più ne metta poi, mi riprendi Giuseppe? No, io lo do perché ne ho preso uno da 50, ne ho preso uno da 50, adesso è. Questo qui va bene, potrebbe servirmi anche, ma se ne serve io glielo do. riprendo e faccio un pochino di bianco per carica batterie veloci. Ok, anche io da poco, ma ancora non lo so a tenere, quando da voce la 50 scendo anche io a vedere qualcuno su i denti. Riprendi Natalie. Ia, uiaia. Sono tanto morto. Ui. Non da polda. Ti girella. Un po' in giro, vero? Perché dopo cioè in giro. Avevo un appuntamento e sono dovuto andare per forza. Tanto che c'erano i miei due fratelli qua, con i rispettivi consorti. Abbiamo mangiato tutti qua oggi. Capito? Sì, ma di quella roba non hai fatto ieri, non hai smontato, no? Perché c'era da smontarne anche quello di sopra, se me lo dicevano prima avrei smontato tutto subito, invece io ho capito che era quello di sopra, invece no, che bisognava salirne una piastra lì. Ok, io voglio un giorno se può andare in giro, Natalia, che hai diciamo capito, ti facciamo una poesia greca perché Carlo mi aveva invitato per il tuo quadro. Hai capito? Non so se mi fai l'idea che poi te lo presento, mi hanno trovato. Lo conosco già coso, l'ho provato a Cagliari che era quel figlio quando hanno dato l'esame, il figlio, conosco anche il figlio io, che l'ha dato con me l'esame. E Giancarlo, io a Carlo lo conosco quando dove andavo sulla 27, infatti lui voleva conoscere in verticale, mi ha invitato ad andare a trovarlo e hai capito, anche apposta Natalizza, non ci parlo, però se capita, dopo che non so più la scuola, di fare un giro, hai capito, ci possiamo anche fare una scappata. Sì, infatti, Carlo era una bravissima persona, CH23 si chiamava quando era CB. È uno dei primi degli anni 70, io già ho durato nel 72 piedi, se mangia, come per questa, poi c'era l'altro mio professore, però non modula più, che quello era la croce nel nord dei Chiaramonti, però c'era un bene, c'era un bel baracchino, Natalì, c'era un quel baracchino, però non funziona, c'era un portai, Natalì, di quelli che già aveva il coso dei canali enorme, se lo facevo 5.000 euro, se mi capiva. Ok, era mio professore a Torino dalle medie di applicazioni tecniche. Era, ok, già li riprendi. Era un attimino di QRX che sta facendo a cosa. QRT da parte mia, saluta a tutti, ce la risentiamo alle prossime, salutoni circolari, ciao! Cappa, ciao Buffo, alle prossime, avanti Natalì. Cappa, ciao, salutoni a tutti quelli che stanno andando via, dai, non c'è problema, riprendi Gianni. Ok, ciao, grazie, ci sentiamo, quando vuoi bussa, quando ci senti che fa sempre piacere conversare. E niente, allora era diploma di Dario Smaltino, diploma di Dario Smaltino, c'è un conte e c'è anche il coso Natalì, su Radio Rivista stava dicendo, ho pigliato nota anche adesso, del come si chiama, del nominativo di questo che stava dirigendo il tutto. Ma il logo per SWL è doppio, non è come quello che hai tu per gli OM. Quello per SWL è doppio, devi avere quello fatto apposta, perché devi segnare tutte e due le persone che senti, capito? Tutte e due le stazioni. Già te lo stampo io quello per SWL, capito Gianni? Dai, adesso io la domenica, e poi a che indirizzo mandiamo Natalì? Perché io sto dicendo che ho il nominativo, però a che indirizzo mando? Bisogna prendere il regolamento se vuoi fare il contest su internet, capito? E così sai le regole, i punteggi e tutto, e a chi devi spedire il log. so se lo accendo, sto patentando, ma allora stamattina mi sono proprio seduto di trottore, sto vicino a Richie Vittore e sto ascoltando molto, molto interessante, non ho ascoltato anche altri colpi, capito, la comincia di sempre qualche cosa, no? È interessantissimo, riprendi qualche... Eia, positivo, positivo. Ma oh, fa piacere ascoltare, beh, ovvio che... Fa molto piacere ascoltare già, beh, anche a me piacerebbe, infatti lo tarderò anch'io, a attrezzarmi un po'. E come si chiama? Sta per parlare un po' di molti, sta per tacere un po' di pochi, ma chi sta per ascoltare mantiene l'unicare pochissimi, quelli lì sono i miei detti. Piace molto ascoltare, ascoltare prima di buttare, hai capito? Molte volte, ma allora ho detto in questi giorni passando un libro con i soli di geometria piana, hai capito? Così per vedere, per rinfrescarmi la memoria, riprendi da lì. Se ti interessano le QSL devi andare. Se tu non vuoi fare diplomi e ti interessano le QSL dei radioamatori, devi andare su qrz.com, scrivi il nominativo lì e ti esce indirizzo vita, morte e miracoli del radioamatore che tu stai cercando. Ok, perfetto. Perfetto, ma questo non è un radioamatore in gamba, radioamatore, veramente. Comunque è nata lì, quello che è stato cacciato, il primo rilasciato a Satari forse, quella cosa della SQL. No, il 73esimo è. Come? È il 73esimo, perché c'è 1/73, il 73esimo è rilasciato a Satari. 63, 63, 63, quindi ha sentito il numero 1/63 e poi SS. /SS, 63esimo è là. Io ce l'ho barrato CA perché prima li dava a Cagliari solo, invece adesso li dà, il ministero li dà ogni città, vuol dire che lo dà. Capito? Infatti che quando penso faccio bene il sentito città di Sassari, il sentito la salita. E dopo ricevo una cosa da lì, ma non sarà solo chi vuole quella roba, no? C'è il tipo solo del ministero. Se te l'hanno dato è valido così. Vuol dire che adesso sono diversi. Io ce l'ho il modello vecchio, cioè quello che dava a Cagliari. Come c'era Claudio, come c'era tantissima altra gente. Io c'ho il modello vecchio e a te vuol dire che ti hanno dato quello lì, già quando ci troviamo di persona me lo fai vedere, capito? E così almeno ti spiego la situazione, come devi fare per i per i contest oppure per avere le tue celle dei radioamatori. Interessante, ho guardato un po' d'ora così, ascoltando. Tu perché non le ascolti di quelle cose? Non le ascolto perché non sono gli strumenti, Gianni. Appena acquisterò gli strumenti ascolto anche quelle cose. Intanto il cose lo puoi fare anche rilasciare, di rilassato. Me la farò rilassare. Ricordamelo quando ci vediamo, già me lo metto in macchina, ce l'ho le domande stampate per essere più quelle, ne ha stampato un po', così almeno se qualcuno serve gliela diamo. Ehi, vatta lì, fai così. E ricordamelo della domanda, che me la metto in macchina e te la passo, ti devo dare anche la QSL, anche a Gianni Capriuelli gliela devo dare la QSL. Già te lo ricordo, allora dai, non ti preoccupare, già te lo ricordo io. Gara KK, io ti ricordo della QSL e poi ti ricordo di quell'altro foglio che mi devi dare. Sì, perché ne avevo stampato un po' di quelli nuovi, perché se qualcuno li serve ce li abbiamo già pronti e glieli diamo, capito? Ok, Natalia, ok, va bene, riprendi, capito? cosa di gran vita, se aveva mai dovremmo avere un'apparecchiatura di quel genere. Ecco. Io ce l'ho quello lì, radiotelefonista di bordo. Direi adesso questa misura che devo avere un'apparecchiatura, che non un'apparecchiatura, magari, però non c'ho documentazione, capito, l'apparecchiatura. Infatti. Comunque io ce l'ho quella patente azzurra che stai dicendo tu. Capito? Ecco, sì, ti ho detto, ti compri anche un po' facile da un momento che la faccio bene, ti hanno agitato anche che ti siamo in consenso, dove? A cantare in Italia, a Cagliari, a Porta, con le tutte a San Piero, se ti capito, magari, se ti vogliono fare un giro a piedi, un giorno ti vogliamo anche andare. Ehi, già, quando sei disponibile me lo dici e andiamo. Che tanto la macchina mia, ci accostuma nulla. Infatti, non c'è problema per quello, già andiamo, quando dobbiamo andare ci mettiamo d'accordo e andiamo, e così parliamo anche a quella persona che dobbiamo parlare. Ecco, ho finito, lì, se mi era posto, ha messo già nocca e da nuove, già, però affascinato da quel concept che c'era di quelle frequenze lì, ma la devo prendere, anche mia moglie ha detto, è una cosa interessante, si è seduta un po' vicino, stava ascoltando, ed è una roba, hai capito? Guarda, quella fare di quei piccoli, che ti deve dare il conto, qualche tuo, se non ti serve lo vai appena. Tu alza l'antenna, prima di alzarla però devi mettere un moschettone con la corda doppia e dopo per il dipolo non c'è problema Gianni, te l'ho detto, tanto in un gattato di dipolo io mi pongo 10 minuti a fare il dipolo, faccio due calcoli e il dipolo è fatto. Ma ti stavo dicendo Natalino, non la piazza o attaccata alla mano qua, la tenere morto tanto di quei tubi dove può fare che si inventato in quelli che c'ho i garaggi e capito lo che alzi a farsi un altro tubo lungo più di quello che c'ho messo alla mano, perché questo è che quanti altri poveri d'acqua e quindi la tiro piatto Natalia al centro del tetto, come c'era l'altra Grand Prix, metto come si chiama i tipori, li faccio tutti assati, hai capito? Ma ci vuole un palo di 6 metri per attaccare il dipolo, Natali, si mette anche più di 6 metri, come chiamo, no, non c'è problema, anche più di 6 metri. Ecco. E allora, quando lo piatti, gli facciamo l'attrecolo per mettere la corda doppia, e possiamo piazzare quelli che vogliamo, i dipoli, non c'è problema. Ecco, tipo un montassone, stasera mi ho portato da garage, tipo un montassone di quella roba che l'ho messa anche in funzione, quello strumento che segnala la corrente 220, non so se che fa troppo lo scappare, mi ho portato anche tipo un montassone per cambiare i cose, le posizioni. Ecco, sì, capa, non c'è problema, già apprezziamo il tutto, va. Se lo piatti al centro viene bene a mettere il dipolo, cavolo, te ne faccio uno di quelli che prendi tutto e così la mantova la lasci libera all'apparato che devi parlare e intanto puoi ascoltare anche quelle cose là. Ma ti ascolta Natali, tutte le spade ascolta, in 80, tutto ascolto con quella, con la mano, con la mano io ascolto, con quella antenna ascolto tutto, però lo voglio fare domani anche per essere pronto per trasmettere. E infatti, no problem. Perché non voglio disturbare a Guido, hai capito, il mio ex collega dell'arma, hai capito? Se no già lui già queste cose già le faceva, già le faceva e adesso voglio andare anche in pensione, non so se questo è della Puglia e che c'era proprio si chiama Volante sempre per il servizio di Sardegna, però non so come rimarrà qui nel campionato e poi sono andato lì. saperne di roba. Certo. Ok, anda bene mela. Vabbè, però parliamo di persona, di queste cose qua, non interessano a nessuno già. Infatti, quando parliamo di queste cose, chi è interessato, come il signore che c'era l'altra sera che mi è stato di grande aiuto, possiamo andare anche a chiacchierare in banda, che a me mi piace molto. E magari ci spostiamo di qualche canale in modo che non disturbiamo e parliamo dove dobbiamo parlare. Poi Natalie può fare quello che ti dico io, perché adesso se ti attiviamo un po' dai piedi, a me Natalie ha anche uguale se che io non la fotocopiare tutte quelle cose che ho di quelle droniche, di quelle attese. Addirittura che noi con quella roba dicevano, parlavamo fidavamo con la polizia, non ci fidavano neanche a avvicinarsi perché noi ci chiamavamo segreto dopo che siete fatti. Allora abbiamo a gente un pochettino che ci aveva il cervello spiegato di cosa si trattava e di cosa l'interferenza, diciamo, quella era all'ordine del giorno, per che erano tutti di quei vecchi televisioni andati lì a valvole, che ogni tanto le pigliava a fuoco qualche uno. Però che noi, come si chiama, andavamo a parlare con... mi ha fatto sorridere. Direi di più, Natale, prima di avere l'apparecchio di stazione fissa, che avevo un portatile di quei vostri soldi, un uomo di questi si chiamava Serra di cognome, un uomo già anziano, stava sempre con questo bastone, ma cattivo, e io dicevo, attenzione, Serra Serra, mi segue questo, Natale, a te, grazie che mi faccia tante televisioni, mi tutti fumano. Dico che è venuto a casa, l'ha preso qua con le vestite al fatto. No, così la salita fuori, diciamo, dopo la gente. No, la capito, perché il ritorno che faceva di qua. Di qua e però da qui, siccome allora con le antenne, allora non c'erano nei ripetitori, a oggi non c'era nulla. Esclusivamente, lui non ricevevamo segnale dall'impare, la televisione qui non si è vista mai bene, no, le coppe erano tutte al baracchino, Natali. E cosa vuoi, l'ignoranza, purtroppo, cosa vuoi? Fa quello ed altro, caro Gianni. Tu le devi andare, canta, canta, chi giù che sei bella oghe. Ma anche Tavo era convinto che tu guarda, ma poi che l'abbiamo comprato, il baracchino per stazione pizza, non c'era per annunciarlo da lì, al primo colpo che l'avevamo messo. Di quei carrellini che c'era sopra, c'era il televisore, sopra c'era il cristallo, era sotto lì e gli ho fatto vedere che non disturbava niente, capito? Però era molte volte l'ignoranza che faceva dire cose non veritiere. Infatti, è tutto vero, l'ignoranza fa quello e altro, perché l'uomo teme quello che non conosce. Non sapevano neanche cos'era il baracchino, e baracchino non sapevano mai cosa voleva dire, anche io non avevo voluto mettere questa roba a baracchino, io avete trasmettito il baracchino e il cerco che mi rifà chiamato il ricetrasmettitore, il mio cugino. Anche io la prima volta che me l'hanno detto baracchino pensavo a un appetito che è meglio grande, a una baracchetta piccola di una vignetta di Natale. Cos'è la 50 chiamato zia? Vai vai che sennò quella ti arruccia, non hai visto quanto è grande. Ok, scendiamo Natale, ma poi riprendo, vai. Per il momento che saluto tutta la ruota ascolto e ti lascio il Querriti di Donne Bimbecco mi chiamano. Per il momento ancora non carica tutti a che ora faccio, io devo andare per forza, perché altrimenti mi arruccia davvero. E anch'io vado a fare carica, va. Già lo lascio acceso, al limite dopo già entro anch'io, va. Adesso mi faccio qualcosina da mettere sotto i denti e poi già ci sentiamo. Salutoni a tutti, anche gli SWL in ascolto, Alfa 1 QRT momentaneo, causa carica. A lei. Va bene già, non c'è problema, anch'io faccio un po' di carica batteria e riprendo subito, vai. Buona carica già. Natali, carica? Sì, signore. Allora carico anch'io, a pallettone? Sì, ma pure a ballagiovami. Carissimo! Carissimo! Vado a fare carica e dopo già ci sentiamo. Va bene, Natali, anch'io carico e... Vai, io mangio un pochino, un bicchiere di latte e vai, dai. Dopo, Natali. Papà, ci sentiamo dopo, dai. Ehi, sono lo stesso canale? E io l'ho acceso qua, non lo tengo neanche, adesso mi vado, mi mangio un po' di quella pasta asciutta allo scoglio e cavagata. Ok, allora sono acceso anch'io qua su... anche lascio, dai, tutto acceso così quando riprendete la sono d'ascolto. Brava, brava, buona carica.